Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Non si sente niente, devi dirglielo. Adesso non dimmi che non si sente. Aspetta, provo un attimo a alzare, ma. No, non si sente. Allora, bisogna spiegare. Allora, tu devi telefonare. Sì. È molto semplice, dai un colpo di telefono, no? Al tecnico. Ma adesso o domani? Domani. Bisogna abbassare, ci sono i rumori, sì. No? Chi è che ha vinto? Ha vinto Alonso. Siamo tutti contenti, tutti felici, amici ferraristi, tutti per strada. Scusa, potresti abbassare un po'? Non si sente. Questa qua è la registrazione. Questa è Sky, capito? La Formula 1. Ci hanno tecnicamente smaronato per dei mesi. La Formula 1, come non l'avrete mai, non l'avete mai vista? Infatti, non l'abbiamo mai vista, però esatto. Anche non la riusciamo mai a sentire. Il problema è quello. Volevi dirmi qualcosa? No, volevo dirti, Alonso ha vinto il Gran Premio e Raikkonen secondo. O Sarracino, o Sarracino, per uguaglione. O Sarracino, o Sarracino, con te vengo in affanna mura. E ne capello ricce ricce, occhio brigando solo in faccia, ogni figliola sa tizia se vede passare. Una sigaretta in mocca, una mano tinta sac, e se una smarciata per tutta la città. O Sarracino, o Sarracino. Vabbè, dai, avanti, dai il risultato. Vai. Allora, successone pieno della Ferrari. Beh, pieno, quasi pieno. D'altronde da Massa non è che possiamo aspettarci più di tanto. Alonso ha vinto il Gran Premio di Spagna davanti a Raikkonen su Lotus. Terzo Massa, incredibile, Massa su Ferrari. Quarto Vettel, quinto Webber, tutte e due sulla Red Bull. Poi Rosberg sulla Mercedes, di resta sulla Force India. Sì, le due McLaren, Button e Perez e Ricciardo decimo. Tu devi stare attento quando fai le classifiche, perché a un certo punto devi prendere respiro, perché sennò poi mi svieni. Lì, perché si respira? Sì, certo, ogni tanto bisogna anche farlo. No, diamo anche dei numeri qua e là, voglio dire. Ad esempio, diamo i risultati di oggi. I tre affascinanti. Non c'è bisogno di urlare, tanto non c'è. Il campionato è finito. No, non è finito. Sì, vabbè, no, ci sono ancora. Capisci? Sì, che c'è gente che ha già la maglia con la Champions e non è neanche in Champions, per dire delle cose. Il campionato è finito, non c'è bisogno di urlare. Voglio dire, non sei... Toni Bassi? No, Toni tranquilli, Bassi. Normali, come se fossi, no? Cioè, capito? Inutile attirare l'attenzione, ad esempio, sulle partite della Sampdoria. Infatti io direi di non parlare della Sampdoria. No, parliamo della Sampdoria. No, ma non parliamo della Sampdoria. No, dici qualcosa della Sampdoria. Sta perdendo 1-0 a Roma con la Lazio. Ecco, gol di Floccari, in palese fuori gioco, diciamolo. Lazio 1, Sampdoria 0. Napoli sta vincendo il Siena, incredibile. C'è Mazzari che guarda la panchina, non guarda neanche più la partita, si tocca il naso. Napoli 0, Siena 1, gol di Grillo. Parliamone di questa partita. Che ci vuoi fare? Siamo questo al 20. 1-0. Ricordiamo, esatto. Siena. No? Retrocesso. Matematicamente Napoli, retrocesso. Napoli Champions. Matematicamente oggi festeggiamenti, urla, Cavani, Grava, Mazzari. Quindi stiamo parlando di Napoli-Siena, quindi si gioca a casa. No? Sì, si gioca a Napoli, a San Paolo. Tranquillo, vedete queste cose qua. Sta vincendo Siena, 1-0 gol di Grillo, perché è il momento di Grillo. Diciamolo, è il momento di Grillo, sì, quindi sì, ha segnato Grillo. Vabbè, e l'Udinese. Allargare adesso, vabbè, poi ti insultano subito. Dici che devo stare più tranquillo. Va bene. Udinese-Atalanta invece 2-1. Era passato in vantaggio l'Atalanta con De Luca, quello che giocava nel Varese, quello piccolino che sembra Giovinco, pelato, eccetera, che corre. E poi è uscito di Natale, diciamo, più che Udinese-Atalanta potremmo dire di Natale a Atalanta, 2-1, doppietta di Natale, quindi in questo momento in vantaggio l'Udinese. Questa sera alle 18 Parma-Bologna, mentre si sono giocati a mezzogiorno e mezzo Chievo-Torino, che è finita 1-1 con gol di Terò per il Chievo e Cerci su rigore. Sì. La Fiorentina ha battuto il Palermo 1-0, mandando matematicamente in B il Palermo con gol di Toni, mentre uno dei risultati più scontati della giornata, Genoa-Inter 0-0, uno squallore di partita indegna. 349-238-6666, 349-238-6666 oppure 800-24-0024, cosa è successo? Ha segnato Cavani. Stavolta non sbaglia il Matador, né pali né traverse a dirgli di no, è parità. Napoli. quindi sì, si è tornati tutti tranquilli. C'è stato un cross con un colpo di testa che è finito sul palo, poi la palla ha iniziato a rimbalzare lì davanti. Chi vuoi che arrivi in mezzo all'area, se non lui con questa chioma nera fluente, col suo fisico. Ma tanto poi comunque chi è che avrà scommesso primo tempo 1-0 per il Siena? Mazzarri. Nessuno. No, no, nessuno avrà scommesso 1-0 per il Siena nel primo tempo, no? Esatto. E poi magari pareggio finale. No, nessuno. No, secondo me vittoria finale. Vittoria finale del Siena? No, del Napoli. Ecco, voglio dire, in questo caso. Tra l'altro sono cose che succedono nel calcio. È stata bellissima l'immagine, perché c'è stato un cross di Hamsik dalla destra, Cavani è andato sul primo palo e si vede nell'immagine ripresa dal basso proprio il dispiacere che la palla era lunga al posto di essere sul primo palo, proprio Cavani che dice ma no, ma ha sbagliato il cross, poi si è girato, si è ritrovato lì la palla sui piedi e l'ha messa dentro. Allora, tornando a noi, tornando soprattutto all'824-0024 per quelli che vogliono telefonare qui, ma quelli che hanno qualcosa da dire, qualcosa da dire sicuramente l'avrete, anche perché abbiamo un ospite ed è anche il momento di presentarlo in questo caso, no? Il nostro mister che normalmente telefoniamo e lo disturbiamo quando è a casa, a volte viene qua, torna ed è tornato, ovviamente ce l'aveva già annunciato, e stiamo parlando del mister Mario Beretta, è qui con noi. Buongiorno a tutti, ciao. Quindi è tornato così, cioè proprio Mario Beretta che è arrivato e ha detto ma cosa state guardando la Serie A? Sì. Ma c'è Cremonese Trapani, ma dobbiamo vedere Cremonese Trapani. Sì, lui ci mastica, mica come te che segui la Sampdoria, cioè, capito, no? Cioè, questo è l'elemento di fondo sul quale, no? Cioè, si può tranquillamente, ecco qua. Adesso... Cremonese Trapani. No, ragazzi, veramente Cremonese Trapani, scusa. Cioè, io chiedo ovviamente al nostro Luca Cancellara di darci gli aggiornamenti istantanei su tutti gli altri risultati, cioè su quelli veri, insomma, su quelli che... Che cosa c'è da vedere, scusa, la Cremonese? Perché sono in ballo per andare in Serie B. Sì. Il Trapani con Lecce. Lecce adesso sta perdendo a Bergamo contro l'Albino Lefe, quindi in questo momento il Trapani in Serie B. Cremonese Trapani 3-3, quindi sono Lecce, pari punti. E Lecce sta perdendo l'Albino Lefe. 2-1. Quindi il Lecce niente. E quindi il Lecce andrà a fare attualmente andrebbe a fare i play-off. Ah, ho capito, va bene. Basta, l'angolo finito. Della Lega Pro è terminato. Torniamo a vedere. Non siamo stati un po' troppo tecnici, voglio dire, su questo aspetto, voglio dire, mi sembra un po' esagerato. C'è qualche squadra che oltre a Cremonese, no, che ha un senso seguire, mister, no? Adesso guardiamo tutte le varie serie, possiamo andare anche in là. Quindi in C2 il Monza, perché C2 ho lavorato un po' nel settore giovanile. Guardo per quelle, ma non è possibile, per il cuore. Cioè, vi devo trascinare nelle mie passioni. Cioè, ma quindi il meccanismo segue le squadre che ha allenato in qualche modo. Sì. Quindi come fa a vederle tutte, però? Sono tante, sono parecchie. Abbiategrasso, Monza, Como, Monza, Corsico, Propratria, Saronno, Como. Non copiare. Voglio dire, sto leggendo. Tante ne allenate. Ma quella è una roba bestia. Lumezzane, Varese, Ternana, Chievo, Parma, Siena, Lecce, Torino, Salonico, Brescia. Salonico è un momento così, no? Cioè, vacanza all'estero. Il PAOK di Salonico. E poi Cesena, e poi il gran finale Cesena. Quindi alla fine sarebbero tutti pareggi, perché sono talmente tante che diventa veramente anche un po'... Però poco fa ci raccontavi di Grava, abbiamo visto Grava uscire nel Napoli, che è uno dei giocatori del Napoli che giocava in Serie C, ha giocato in Serie B, ha giocato in Serie A, è arrivato in Champions con Napoli, gli hanno fatto la standing ovation, è uscito al 12° del secondo tempo, questo giocatore che tu hai allenato. Ho allenato 2 anni a Terni e mi fa piacere degli applausi da parte del pubblico di Napoli, perché è un ragazzo fantastico e insomma Napoli è andato dalla C fino alla Champions League, quindi... Sì, no, perché diciamo l'Italia intera dice chi se ne frega di Grava, cioè detto così, esatto. No, così in generale anche ci fosse Grava, quindi... tra l'altro voglio dire, no, perché c'è gente che non sapeva neanche che giocava Icardi oggi di la Sampdoria. È vero, lo ammetto, io me ne sono accorto al 35° che però Icardi la notizia non è Icardi in campo, ma bensì Maresca in campo, esatto. No, e perché Maresca è andato in campo solo ora? Esatto. E dove, cosa ha fatto fino adesso? Era rotto, non era rotto? No, era rotto era rottigno un po', ma non tanto. A gennaio era rotto e sedetto. È arrivato. Vabbè, adesso non fai proprio la storia, è una domanda retorica la mia. No, non mi frega no, niente. Ma che se frega della risposta di Maresca, scusa, era una domanda buttata lì così, dai. Tanto però per il dire. Mister lo sa. Però... Sì. No, no, aspettiamo Maresca alla fine dell'anno che ha detto che ci... darà delucidazioni su, no, sul fatto, sul fatto che ormai non abbia mai giocato. Guarda, Obama, Maresca, Maresca. La conferenza stampa di Obama subito dopo quella di Maresca. Cioè, effettivamente è quello che ci interessa che... in particolare. Volevo però, se tu mi permettessi di lanciare l'argomento di oggi, che in qualche modo è un argomento che noi abbiamo lanciato anche all'interno delle pagine Face, e non ho capito perché adesso mi fate accelerare come le radio commerciali. Oh, io sono cioè proprio quelle un po' cioè, veramente, cioè, giovani, giovani, veramente giovani, veramente giovani, veramente giovani. Cioè, siamo veramente giovani, allora parlo più veloce, capito queste cose qua. Stai calmo, ti agitato, avete vinto lo scudetto. Avete vinto lo scudetto. Avete pareggiato col Cagliari, avete vinto lo scudetto, siete già in vacanza con la testa sotto l'ombrellone. Vabbè, tranquillo. Allora guarda, visto considerato, devo prendere fiato, andiamo direttamente con le strade in diretta. Dai e vai. Strade in diretta. Sulla 14 Adriatica, traffico rallentato per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso l'Autosole. Sempre in A14, prudenza per le piogge intense e temporali, visibilità ridotta tra Giulianova e Pineto. Traffico intenso sulle strade di confine verso la Francia, quasi 2 ore di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco. Per questo è stata chiusa la A5 da Courmayeur Sud e ci sono poi un paio di chilometri di coda sulla 32 Torino-Bardonecchia in prossimità del traforo del Frejus. Code anche verso l'Austria sulla 22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno. In direzione della Svizzera si rimane incolonnati sulla 9 la Inate-Como-Chiasso tra Como-Monteolimpino e Chiasso. È tutto, a più tardi. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Palla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, gonfiato ed addestrato per dar calcio ad un pallone. Allora balla per me, bellina, balla, che palla dopo palla lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfoga il tuo dolore. Balla per me, bellina, balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, bellina, balla, che sei cornuto l'arbitro eppure il giocatore. Non si sa bene che cosa si sia fatto, però è andato via in barella, ho capito bene. È andato via in barella, tra l'altro un incidente ha spizzato la palla di testa saltando altissimo di Natale dell'Udinese ed è caduto su una gamba sola, probabilmente il contraccolpo gli ha fatto male al ginocchio. È uscito in barella proprio in questo momento Totò di Natale nell'Udinese. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva ripartenze. Allora, 349-238-6666, sulle pagine Face abbiamo lanciato sostanzialmente abbiamo fatto una domanda ai nostri più o meno ascoltatori, o comunque quelli che ci frequentano anche sulla pagina Face, che tra l'altro sta lievitando in quanto a numeri. Non ho capito perché, cosa è successo questa settimana? Cioè di botto, pam! Sono arrivati un po' di gente, insomma. Quanto manca a 1000 qualche cosa? Non mi ricordo più quanti siamo. Cioè. Siamo in questo momento, siamo a 1083, ne mancano 17. C'è una cifra tonda e non se ne parli più. No, diciamo, entro la fine della trasmissione, non più in là. Chi non vorreste più vedere nella vostra squadra? Chi non vorreste più vedere nella vostra squadra? La domanda è molto semplice e facile. Non chi voglio comprare Messi, no, facile. Facile. Chi vuoi comprare della Juve? Higuain. No, quello arriva davvero. Cioè, come arriva? Arriva davvero. Cioè, sì, ma dai, scusa, cioè, mai è fatta. No? Non ci avete Llorente già. Quello c'è, va bene, ma adesso non è che ci teniamo ancora a Matteo. No. Allora per semplificare. No, allora a questo punto io mi sono subito sbizzarrito, ho messo i miei. Come sì. No, do tutto il comunicato? A tutto il comunicato. Lei, va Circolo bene. Bianconero Alex per sempre, sì. Che fa parte della redazione del Dai e Vai. Diciamo una parte della redazione Dai e Vai. Circolo Bianconero della redazione Dai e Vai. Questo suggerisce che cosa? Allora, non vuole più vedere, sì, non vuole più neanche vedere. Dipinti, cioè proprio in questo caso. Padoin. Peluso. Deceglie. Calma, sono soldi questi. Matri, Quagliarella, Isla e Anelka. Vabbè, hanno il capo per ovvi motivi, cioè, non abbiamo ancora visto, non sapremo neanche dipingerlo in questo caso, quindi in questo passaggio diventa anche tutta un po'... tutta sta gente da te, eh? Beh, c'è anche poi là, lì, il danese. Cioè, ah, Bentner, vabbè, ma poverino. E non ho ancora abituato, non sono abituato al suo nome, quindi per questo che non l'ho ancora chiaro. Quindi, per tutti quelli che... poi ce ne sono stati altri, hanno cominciato, tra l'altro, altri a scrivere. Allora, parliamo col mister, chi non vorrebbe vedere nella sua squadra del cuore, non in una nella Ternana, facile, no? Proprio nella sua squadra del cuore, che ricordiamo è il... Milan, vai, vai. Devi ricordarlo lui, ho fatto la domanda lui. No, perché poi i mister sono così... Ma togli via le domande... Io, cioè, allora. sono legato al Milan e a tutti quelli che vestono la casa Carmina. Ma non è possibile! Neanche la domenica sportiva si fanno queste risposte, cioè è veramente una cosa vergognosa. Posso dire delle altre squadre, Anelka mi sembra... Anelka, va bene, anche lei l'ha vista. Esatto. In questo caso diventa poi dopo, vabbè, non rilascia dichiarazioni il mister, tra l'altro c'è dibattito in campo e stiamo parlando fuori, via, a casa, diciamolo. Ma chi, Renan? All'arbitro Romeo è arrivato un rosso diretto. Renan è finita intanto al Friuli, l'Udinese ha battuto l'Atalanta 2-1 con la doppietta di uno straordinario. Segnalo, questa cosa qua. Intanto via a casa, intanto pensatemi che di recuperare in questo passaggio, no, perché è importante, non è più, secondo me è importante quanto chi è che arriva nella propria squadra, perché intanto togliere via un po' di giocatori si risparmia, diciamo, oggettivamente si risparmia, giusto? Quello di sicuro, è chiaro che a fronte di arrivi inevitabilmente ci sono delle partenze, anche perché non è che uno possa allenare poi 40 giocatori, non già ce ne sono comunque parecchi. Il massimo secondo lei quanti giocatori ha un senso per fare? L'ideale è 25 giocatori. 25 giocatori? Per 25, sì, perché sennò diventa... Io ho provato purtroppo a far stagioni con più di 30 giocatori, veramente complicato. Ma 30 giocatori si va in Europa, cioè 25 giocatori si va in Europa anche. Sì, no, il problema è che io giocavo una volta alla settimana, la domenica e basta. Quindi già era una ressa, cioè esatto, 25, esatto. No? Ecco, fare l'allenamento, fare le partite amichevoli diventa veramente complicato. Sì. No, sì, 30 però voglio capire, con 25, se uno volesse andare proprio in Europa e fare anche proprio bella figura... Beh, credo che poi dopo ovviamente c'è dietro la primavera, si possono sempre andare a prendere... eventualmente ragazzi e giovani, insomma, mi sembra anche un momento in cui sarebbe molto importante rilanciare un po' i nostri vivai. Ecco, a proposito di questo, è un peccato che si debba magari pensare a rilanciarli solo per questioni contingenti, sarebbe una filosofia che uno dovrebbe avere indipendentemente costretti, da tutto, insomma, esatto. In questo caso, esatto. Questo quindi però insomma quantomeno proviamoci, ecco. A proposito di questo, nelle scorse settimane abbiamo parlato del progetto della Lega di fare il campionato riserve, si dovrebbe, ricordiamolo, è un progetto che dovrebbe partire a settembre, si dovrebbe giocare il lunedì, in cui entrerebbero, intanto c'è un rigore per la Lazio, ecco, piove sul, come si dice, piove sul bagnato, sentiamo? Vediamo cosa succede. Vabbè, quando tira, dai. Sì, c'è Candreva con la palla in mano. Sai come fanno i bambini? Ma fai la domanda. No, come giudica un allenatore il fatto che esista questo campionato riserve? Fermo lì, non rispondere, arriva il rigore. Candreva. Tira, gol. Mamma mia. Ha fatto il cucchiaio. Però ha fatto un cucchiaio quando il portiere era già a terra, cioè una cosa veramente vergognosa. Infatti è lì che bisogna farlo, no? No, perché se il portiere è in piedi, fare il cucchiaio sì, però è tosta. Di solito fa il cucchiaio mentre il portiere, Nino non mollare, fa vedere una maglietta. Esatto. Mentre il portiere si tuffa, invece si è visto chiaramente che c'era Da Costa già sdraiato per terra e lui ha fatto il cucchiaio, poteva anche tirarla a raso terra centrale. Vabbè, senza problemi. Non ti va bene mai niente. No, niente, non mi va, ti va bene mai niente. Niente ha fatto basta. Gol, basta, cioè questo non mi va fare super pippone anche sui gol, che non va bene. Candreva gol. Allora dicevamo di la domanda che hai fatto te la sei dimenticata. No, era quella del campionato riserve, cioè se è una possibilità in più per gli allenatori oppure è un'ulteriore difficoltà nell'allenare, perché a quel punto bisogna avere due squadre. No, secondo me sarebbe una dubbiamente con le rose, come dicevo prima, vaste che ci sono adesso, sarebbe sicuramente un aspetto positivo, perché si dà la possibilità a chi non gioca, chi gioca veramente poco, poi di mettersi in mostra. L'ideale sarebbe, come fanno credo in altri campionati, non solo europei ma anche da altre parti, magari fare esattamente la stessa partita. Ah, sì. in modo da poter riportare via quelli che sono già venuti via con la prima squadra, si debba fermare per non stare, anche per una questione logistica. Sì. E in questo caso sarebbe, secondo me, sarebbe molto difficile. Quindi, ad esempio, oggi, per fare un esempio, c'è stato Udinese-Atalanta, domani si dovrebbe giocare Udinese-Atalanta nel campionato riserve. In modo da fermare lì quelli ragazzi che ci sono già. Intanto De Rossi mi hanno detto qua, cioè già hanno scritto Daniele Comastri, ha mandato sulla pagina Face, lui non vuole vedere più De Rossi. Sì, c'è dibattito. Cioè, è un po' strana questa cosa qua. No, ma c'è dibattito. Beh, lo vorrebbero vedere molti altri, nella loro squadra, secondo me. Certo, certo. Francesco invece dice che Schelotto, facile prendersela con i più deboli, non mi sembra assolutamente scandaloso per certi versi. Ti ricordo che tra l'altro non abbiamo poi moltissimo tempo per dire tutti gli altri. No, ad esempio, poi ci abbiamo Goicoechea, poi abbiamo Bettner, destro, cioè uno già della Roma non vuole neanche più destro da questo punto di vista. Vabbè, insomma, e Simone sì. Dice Taxidis, Goicoechea e Piris, ecco, hai capito, Matri della Juve, Chivu dell'Inter. Bene, grazie, ne parleremo ovviamente più tardi, esattamente dopo il GR. Dai e vai, non è solo calcio. Sempre un po' di tensione questo pezzo qua, perché dice prima o poi cambia, prima o poi cambia, prima o poi sta cambiando, poi parte, cambia. Poi adesso riparte, poi dopo queste cose, no, poi dopo, insomma, prima o poi cambia ed è cambiato, cari ascoltatori. Dai e vai, ovviamente tocca temi che in qualche modo si sussurrano, tutti pensano in qualche male, tanto tutti pensano male, tanto per cominciare, a prescindere. Noi non pensiamo male, però vorremmo andare a verificare, stiamo parlando di un periodo un po' strano, no? Normalmente in questo periodo si è sempre parlato di pastette, di periodo, stai parlando, scommesse, calcistico. No, ma periodo fine stagione, fine campionato, in questo caso parlando di calcio, di solito tutti quanti c'erano dei sospetti, i risultati erano un po' strani, devo dire che però in realtà tutto questo in questo periodo qua non è accaduto, cioè i risultati particolarmente strani non sono più usciti fuori, forse perché l'ondata del calcio scommesse ha regolarizzato in qualche modo o comunque ha messo un po' d'attenzione su questo argomento, giusto? Sì, negli ultimi tempi, soprattutto in questa stagione, dopo quello che è successo l'estate scorsa, magari c'è stata una maggiore attenzione, poi vedremo. Abbiamo avuto calcio scommesse negli anni 80, abbiamo avuto calcio scommesse a metà del 2000, magari fra qualche anno tornerà il calcio scommesse. Noi ne parliamo direttamente con il responsabile ufficio scommesse dei Monopoli di Stato, Luca Turchi. Pronto? Ciao, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene, Luca? Tutto bene. Io faccio sempre questa scena che faccio finta di conoscere tutti, ma in realtà, vuol dire, no? Cioè, ci semplifica la comunicazione, no? Perché poi diventa poi tutto agitato, adesso chissà che cosa diranno sul calcio scommesse. No, non c'è niente da dire sul calcio scommesse. Il problema è che voi, in qualche modo, l'ufficio scommesse dei Monopoli di Stato, in questo momento, ha un'overdose di lavoro o no? Controlla oppure controlla normalmente? Ma vedi, i controlli partono il primo settembre e finiscono il 31 agosto, perché insomma tutto sommato andiamo a controllare tutti gli sport, tutti gli eventi sportivi italiani. Sì. Adesso ovviamente l'attenzione è concentrata per i noti fatti di cronaca sul calcio, però per noi controllare il calcio ha la stessa valenza di controllare il Giro d'Italia, un avvenimento ciclistico o un avvenimento di pallavolo o comunque un qualunque avvenimento italiano posto nel nostro palinsesto. Anche se in realtà ti devo dire che visti gli accordi che abbiamo come amministrazione con la FIFA e col CIO e con i colleghi francesi, la nostra attività diciamo è un po' a 360 gradi, quindi cerchiamo di controllare anche gli eventi stranieri che hanno una raccolta di gioco in Italia per segnalare eventuali anomalie. Cioè, ci spieghi bene questo, perché ci è sfuggito alcuni passaggi. Primo, perché ha un rapporto con la Francia? Colleghi francesi. Perché in Francia, come noi, c'è un sistema pubblico di controllo del mercato del gioco, delle scommesse. e quindi abbiamo stipulato un memorandum d'intesa e praticamente quando troviamo delle situazioni di possibile combine nel mondo dello sport, avvisiamo anche i colleghi francesi, la stessa cosa stanno, fanno loro quando vedono che c'è del presunto gioco anomalo su partite italiane, oh. Quindi c'è uno scambio, diciamo funziona bene la cooperazione internazionale, mettiamola così. Ecco, diciamo, ma in questo momento lei, voi potete decidere, capire se c'è il gioco anomalo su degli eventi sportivi in questa fase? Sì, quindi in questo momento qua voi potete dire che non ci sono. Ma in questo momento qua, nella stagione in corso, parliamo 2013-2014, in generale su vari sport italiani qualcosa abbiamo continuato a vedere. Tipo? Tipo magari diciamo una concentrazione di gioco, diciamo una faccio un esempio senza dire la partita, sì. Una concentrazione di gioco sul segno X pari al, per le scommesse singole pari a oltre il 95%. E magari la concentrazione di gioco era su determinati punti vendita all'interno di una determinata provincia. Ecco, ma dico, cosa accade? Quando arrivano queste c'è un livello, una borderline superata quella, voi cominciate a muovervi in un altro modo, cioè in questo caso? Allora, ovviamente c'è una grande capacità di analisi, ci deve essere una grande capacità di analisi, perché molto spesso quel gioco strano, quel gioco tutto indirizzato su un dato possibile esito, magari è sintomo non di possibile gioco anomalo, quindi possibile combine a livello sportivo, ma magari è sintomo di una certa speculazione, giocatori che ritengono che quella partita finirà in quel dato modo e quindi i giocatori giocano tutti su quel risultato. Quindi non è sempre vero che il vedere una fenomenologia di puntate tutte sullo stesso esito comporta necessariamente la possibile combine su quella partita. Ecco, per fare un esempio, tipo Chievo-Torino oggi, senza, è una partita che si prevedeva che fosse un pareggio, quindi intendete questo esempio? Intendiamo questo esempio. È ovvio che se io vedessi, io o le persone che lavorano nella struttura, vedono che ad esempio una elevatissima percentuale di gioco arriva solo da determinati punti vendita, allora cominciamo a indagare più approfonditamente. Però se il gioco si verifica in maniera normale, equilibrata, con puntate nella norma, diciamo, per la norma intendo in quel range di normalità che ovviamente conosciamo attraverso il mercato, non riteniamo alla fine di segnalare alcunché su quella partita. Ecco, senta una cosa, noi abbiamo fatto anche, abbiamo cercato di capire bene questo fenomeno delle scommesse e si è scoperto ad esempio che a Singapore si scommetteva moltissimo sulla Serie B della Svizzera italiana, sì. In questo caso, ecco, ci sono dei luoghi, delle situazioni particolari, delle categorie particolari, dei livelli particolari dove in Italia si scommette? Perché tutti quanti pensano che le scommesse siano concentrate sulle partite di Serie A, probabilmente ce ne sono sicuramente una grande fetta, ma magari invece le grandi scommesse o comunque i giri di scommesse sono messe anche in altri settori, no? Cioè in qualche altro passaggio. Ma, guarda, la tua domanda mi dà lo spunto per dire alcune cose specifiche. Noi andiamo a controllare quella che è la raccolta della rete dei concessionari italiani, sì. Per cui a noi sfugge tutto quello e purtroppo è molto molto molto che viene raccolto verso punti vendita su rete fisica e punti vendita telematici che sono di operatori non concessionari. E purtroppo in Italia sia su rete fisica che sia sull'online questo aspetto è molto vasto ancora oggi purtroppo. Cioè società che non hanno l'autorizzazione. Perfetto, perfettamente. E i fatti di cronaca di Cremona hanno dimostrato come già all'epoca, quindi parliamo di 2-3 anni fa, la maggior parte del gioco su partite combinate andava poi su siti o su operatori non concessionari, perché di fatto chi vuole taroccare la partita, chi vuole biscottare la partita, cerco di usare un po' di termini non propriamente tecnici ma comprensibili a tutto il pubblico, magari a remore a giocare sulla rete degli operatori legali, perché sanno che c'è un maggior controllo che è a garanzia, precisiamolo, a garanzia dei giocatori. Dai e vai, non è solo calcio. Rieccoci di nuovo, responsabile dell'ufficio scommesse di Monopoli di Stato, Luca Turchi, e andiamo a chiudere questa intervista che comunque ci interessava. Ci può dare una parola di conforto? Non avete visto movimenti anomali allora? Beh, e in questa fine settimana no, nei passati qualcosa si è visto. Qualcosa si è intravisto. Poi ovviamente quando noi riteniamo che ci sia qualcosa di anomalo, procediamo a fare le segnalazioni agli enti, agli organismi che collaborano e con i quali collaboriamo, certo. Che sono ovviamente le forze di polizia, e quindi attraverso un processo che vede coinvolto in pieno il Ministero dell'Interno, e poi ovviamente agli organismi sportivi, in particolare la FIGC per problemi relativi al calcio, oppure il CONI per problemi relativi agli altri sport. Ecco, tanto comunque, per dare qualche cifra, sulle 38 giornate di campionato, in quante giornate avete avuto delle segnalazioni su anomalie? Tanto per capire. Diciamo che per il calcio quest'anno abbiamo visto poco più di una mezza dozzina di partite un po' sospette. Ovviamente parliamo di calcio di Serie A, B e C. Sì, certo, certo. E quindi considerate che su un volume di qualche migliaio di partite, comprese le Coppe Italia che ci sono, insomma dire 5 o 6 è tutto sommato un qualcosa di quasi fisiologico, però sì, insomma sì. Noi ci auguriremmo che nel futuro di non trovare mai niente, di lasciare a vuoto, però insomma... Domanda, ma sul Giro d'Italia ci sono scommesse? Sì, sì, certo. Non anomale? No. Quest'anno no, per ora no. Per il momento, ma in passato sì, quindi? Nel ciclismo in passato abbiamo visto qualcosa di strano, parliamo di qualche annetto fa e anche 2-3 anni fa abbiamo visto su alcune corse qualcosa di strano, però chiaramente in Italia i volumi di gioco sul ciclismo sono non troppo alti, per cui alla fin fine poi non abbiamo ritenuto necessario e opportuno fare segnalazioni, però qualcosa di strano. E poi guarda caso i giornali ne parlarono su quelle scommesse realizzate all'estero, su quell'avvenimento, per cui forse anche quella volta un po' ci avevamo visto bene, però ribadisco, sul ciclismo in Italia il mercato delle scommesse è calciocentrico, il calcio fa il 90% del mercato, il ciclismo fa lo 0,15 se non ricordo male, per cui è qualcosa di veramente poco. Ovviamente il nostro interesse come amministrazione, come sportivi, come avanti dello sport, è che in Italia tutti gli sportivi, tutti gli appassionati possano mettersi alla prova su un po' tutti gli sport. Non vedo perché un appassionato di pallavolo femminile non possa divertirsi e mettersi alla prova sulle gare di pallavolo. Fermo restando che, ricordiamolo sempre, la scommessa deve essere un divertimento sano e non deve sconfinare in qualcosa di preoccupante. Per cui giocare illecito, giocare poco, giocare sempre per divertimento senza andare a intaccare altri modi di investire il proprio denaro. Ecco, belle parole giuste, ma soprattutto questo deve essere chiaro. Certo, questo deve essere molto chiaro. Domanda così che voleva fare Luca Gattuso sul curling, cioè sono scommesse? No, sul curling in questo momento qua no, perché è uno sport tipicamente invernale. Va bene, grazie, risposta giusta comunque, bravo. Grazie, a risentirci. Ciao. Tu ti alzi e vai lì a scommettere sul Giro d'Italia. Beh, che cosa scommetti? Scusa? Beh, se scommetti chi vincerà il Giro, però non adesso, perché ormai si sa che lo vincerà Nibali, ormai dopo la cronometro. Chi vincerà il Giro direttamente? Ormai è inutile scommettere, la quota di Nibali è bassissima, vincerà Nibali perché si vede che... Mister... cioè non scommette su mai no, non no so mai proprio da che parte con quelli siamo in due in questo caso proprio... non saprei neanche dove andare nell'ufficio, esatto. So che davanti a casa mia c'è un ufficio dove si scommette, però non vado mai in questo passaggio però è strano questa cosa. Che cosa si può scommettere sul Giro d'Italia? La cosa è un po' strana, tipo non so chi è che la tappa, magari il Gran Premio della Montagna, sì, non so queste cose. Quotidianamente si scommette sulla tappa, tra l'altro fra i giornalisti del Giro c'è un concorso interno in cui ogni giorno i giornalisti stilano l'organizzazione ordine d'arrivo, sì, della tappa e fanno la classifica interna, sì, si scommette sulla tappa e poi prima dell'inizio del giro Il Toto Giro Nero, sì, non ho capito, no, cioè, i giornalisti, però sono, diciamo, un esperto di ciclismo è il nostro mister Mario Beretta, sì, ma è un grande di cicloturismo, ah, ciclo-turismo. Okay. Non lo seguo il giro, quindi non sa niente di Maxim Belkov. Maxim Belkov, è colui che ha vinto della Katiusha, ha vinto la tappa di oggi del Giro d'Italia, l'arrivo a Firenze, 150 km di fuga per Belkov, ha vinto lui oggi, maglia rosa non è cambiata. La squadra si chiama Katiusha, non quella Katiusha, no. Se si chiama Katiusha. No, pensavo che Katiusha era un'altra cosa, non i missili che venivano sparavano. Esatto, non quella roba. Insomma, tra i tanti nomi che si poteva utilizzare, proprio quello mi sembra veramente un lanciamissili. Infatti lui è partito come un missile, sì, ha fatto 150 km di fuga, proprio pum è partito ed è arrivato. Sono cose che intanto ci illuminano di immenso. Ci dicono buon pomeriggio, nel Milan non vorrei più vedere i dirigenti e gli addetti mercato che negli ultimi 20 anni hanno portato a Milano dei veri e propri bidoni, sperperando milioni di euro in ingaggi e stipendi. Beh, intanto non sono problemi tuoi, primo, no? Voglio dire, adesso ti preoccupi. Non puoi fare polemica con l'ascoltatore. Ma scusa, non è possibile, bisogna risparmiare, cioè fatti i cavoli tuoi, scusa, cioè un presidente che caccia la moneta, fallo cacciare la moneta, scusa. La cosa che mi sconvolge è che questo è ricordiamo il numero, sì, 349-238-6666 per mandare i vostri sms, oppure 800-24-024 se proprio volete parlare e usare la vostra voce per dire delle cose e far domande anche brillanti al mister che abbiamo qui con noi, che il nostro Mario Beretta, che ci ha ancora una volta allietato con la sua compagnia. Quello che mi sconvolge è che questo sms potrebbe essere declinato perfettamente sostituendo la parola Milan a Inter. Sì, buon pomeriggio, nell'Inter non vanno più bene i dirigenti e gli addetti di mercato che negli ultimi 20 anni. Non è così, è perfetto anche per l'Inter, sperperando molti più milioni. Varrebbe per molte squadre, devo dire. Per il Milan secondo me no, perché poi tutto sommato insomma, il Milan ha preso Ibrahimovic, ha vinto il campionato anche in precedenza, voglio dire. Ma è chiaro che non è che puoi vincere sempre per 20 anni, però certo, non 20 anni gli è stato rubato Quaresma al Milan, esatto, direi e questo è un po' fondamentale, certo, diciamo fra le squadre che hanno sperperato a livello di mercato mi sembra che il Milan non sia sicuramente fra le prime, no, ce ne sono ben altre che hanno sperperato di più del Milan, indubbiamente, rispetto però soprattutto ai risultati degli ultimi 20 anni. Basta vedere adesso il Palermo quest'anno è retrocesso, ecco, e non è che aveva, non è che abbia speso poco. Nel mondo del calcio c'è un po' di soddisfazione sul fatto che il Palermo sia retrocesso, una sorta di condanna nei confronti. Cosa stai dicendo? No, ti spiego la domanda, attenzione, è Luca Gattuso che ha detto questa attenzione cosa. Spiego la domanda, non mi prendo responsabilità. C'è una spiegazione alla domanda, nel senso che c'è un certo atteggiamento di Zamparini nei confronti di questo cambio degli allenatori, eccetera. C'è un po' di finalmente così è stato punito di questo suo atteggiamento. Ma probabilmente con i 150 allenatori che sono passati da Palermo, la maggior parte magari godono adesso, io non lo so sinceramente. A me personalmente non sono mai stato a Palermo, di conseguenza non mi interessa la cosa. È ovvio che adesso non so quanti allenatori sono passati da Palermo e indubbiamente anche quello è uno sperperare. Ma voi come allenatore lo vedete come un'occasione, una speranza? Cioè Zamparini, c'è Zamparini in A o comunque c'è Zamparini in giro, beh insomma bene che ci sia Zamparini perché magari lavora di più un po' per tutti, un po' per ciascuno, l'aspetto di sicuro, l'aspetto professionale un po' meno. È tosta. Sì, perché magari uno Balesani quest'anno ha fatto 3 partite, sì esatto, 3 pareggi e se n'è andato, ecco. Dal punto di vista professionale non credo che sia il massimo. Infatti Lorenzo sul 349-238-6666 scrive: ma perché Zamparini cambia così tanti allenatori? Deve essere chiaro a Zamparini, scusa. Esatto, no, lo so, sì, però no, che domanda è, scusa, ma perché non lo so, sinceramente è veramente inconcepibile. Parma come ha cominciato col Venezia, poi l'ha fatto uguale col Palermo e non si capisce, ma ripeto quest'anno può essere stato in modo particolare, perché ripeto, prende Malesani per 3 partite, 3 pareggi e lo manda via, cambia, poi ritorna Gasperini, 2 partite lo rimanda via. Allora mister, la domanda è questa: non se ha senso cambiare allenatore, quando ha senso cambiare allenatore? Detto da un allenatore secondo me ha senso nel momento in cui ci sono dei rapporti con la squadra che ormai non conflittuali, sì, di spogliatoio. Allora a quel punto ma lì sono conflittuali oppure la squadra non crede, no, conflittuali non tanto perché uno non gioca, perché quello è fisiologico, questo anche chi vince il campionato, per l'amor di Dio, però conflittuali quando proprio non c'è più rapporto, non, la squadra non è che non vuol seguire, ma non è in grado. Anche da parte dell'allenatore non riesce più a trasmettere, ma non perché non riesce a lavorare sul campo, ma perché proprio non c'è dialogo con i calciatori. Ma non c'è dialogo con i singoli, o non c'è dialogo con la squadra? In generale, globalmente. Ma perché è la squadra che fa blocco? Cioè, quando la squadra ha da tanto tempo, vanno d'accordo loro, decidono... Ma io credo che se dovessero andare d'accordo loro e giocare, tra virgolette, contro l'allenatore, ma vincendo, ma io sarei ben contento. Certo, perché se firma. È chiaro che... Se perdono, se decidono di perdere, perché giocano contro di loro, non giocano contro l'allenatore. Ecco, questa è una domanda d'attualità oggi, perché ieri il Manchester City ha perso la finale di FA Cup in Inghilterra contro la terz'ultima in classifica, Manchester City, che è arrivato secondo, e qualcuno ha balenato l'ipotesi che i giocatori abbiano giocato contro Mancini per non vederlo e più. Quindi contro se stessi. Sì, però sembra incredibile. Io ho mai visto giocatori giocare contro se stessi. Sembra incredibile che abbiano perso contro la terz'ultima in classifica una finale di Coppa. Sì, abbastanza. Allegri ha già firmato il contratto? Ci chiedono. Sì, ha fatto benissimo. Ci dice Roberto da Milano. Dai e vai. Non è solo calcio. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Roberto? Pronto Roberto, sei ancora lì? Sì. Sei bioccato un po', stai facendo la pennica, di la verità, Dai. No, comunque vedi che mi seguo sempre, ve lo dico, mi seguo sempre. Voi non ci vabbè, le domeniche non sai cosa fare, insomma, questo esatto. È il concetto di base, ok, complimenti, va bene, dai. Allora, ce l'hai, Allegri ha già firmato il contratto, se sì ha fatto benissimo, ci mancherebbe altro. Cosa vuoi dire con questo? No, nel senso, se ha firmato il contratto con la Roma, ho detto sul giornale, Petriani, non sono d'accordo, per quello che ha fatto a disposizione dei giocatori, non è che aveva grandi giocatori, eppure ha fatto anche i miracoli, tra virgolette, non merita di essere, per me merita di continuare a trovare il contratto. Sì. Oh, quindi tu vorresti Allegri, questa sì, è la base. No, spada tratta. Ok, spada e tratta. Quale giocatore non vorresti più vedere? Qualche giocatore. Roberto, tu perché squadra tifi? Milan. Okay. Milan, ecco. No, no, è per essere certo. Magari ci parla di Allegri e ti va per l'Inter. Magari sì, sai. Tutti hanno giocato bene, secondo te? Come? Tutti hanno giocato bene, li vuoi vedere tutti di nuovo? No, qualcuno, Dio, non lo vorrei. Ad esempio, a me non mi va tanto bene Robinho. Perfetto. Ad esempio, Traoré lo vorresti ancora l'anno prossimo? Come? Traoré lo vorresti ancora? Traoré, chi è? Ecco appunto, ok. Va bene. Ciao Roberto, buona giornata. Buona giornata e saluti anche a Mario Beretta, che è un grande milanista. Sì, grazie. Devi dire un grande allenatore, che è un grande milanista, scusa, ma che cialtrone, dai Roby. Ciao, scusa. No, scusi, è mister. Puntualizzazione. Grande milanista, insomma. Parliamo, ricordiamo anche, tra l'altro, il nostro numero 349-238-6666, dove ci è arrivato, io scommetto quotidianamente sul testa a testa tra i ciclisti della tappa del giro. Testa a testa è quella specie di sottocompetizione all'interno di ogni tappa in cui si decidono due ciclisti tipo Nibali e Wiggins, chi arriva davanti fra Nibali e Wiggins all'arrivo di tappa, e funziona così. No, altre invece ce ne sono, altri, cioè, quello è già una scommessa, sì, che io per esempio non avrei mai pensato di fare, cioè, non immaginavo neanche che esistesse. Sì, poi vabbè, le due classiche di cui abbiamo parlato prima, ossia chi vince la tappa giorno per giorno, chi è in testa nella classifica punti, chi vincerà il Giro d'Italia quello generale. Un po' più, sì, sulla tappa, una di quelle più classiche, quelle più diffuse sono il testa a testa fra due ciclisti. Ecco, vabbè, insomma. Draghi, beh, adesso tu dici la tappa qua, la tappa là, la tappa su, la tappa giù. Sì. Per organizzare una tappa del Giro d'Italia. Vabbè, metti quattro bancarelle, metti no, su una tribunetta, sì, e poi sì, arrivano. Sì, no, quello sì, ho capito. Poi metti il nastro, la striscia, esatto, per terra. La striscia per terra, scrivi per il traguardo su in alto, esatto, e sei e a basta, posto. Quattro balaustre lì, com'è che si chiamano? Quelle di ferro per evitare che la gente vada in mezzo ai ciclisti. Sì, ancora le balaustre. Le transenne, quattro sì, transenne, via. Cosa ci vuole? Hai superato le parafitte e sei arrivato alle balaustre. Questo è il concetto di base, metti quattro transenne all'arrivo e fatta, sì, dai, sì, parliamo di cose serie, parliamo di tappe serie, le tappe, quelle importanti. Stai no? parlando di tapponi dolomitici? Beh, insomma, altre tappe ci sono, esistono, no, ce ne sono, ce n'è un'altra. Vabbè, le cronometro, no, ma una è stata ieri. Scusa, quindi apriamo la parentesi, quest'anno il Giro d'Italia fa tappa anche a Ivrea. Ah, fa tappa, cioè, a Ivrea. No, lo dico così, no, la metto lì. Però ci sono i tapponi, quelli seri, no? Cioè quelli importanti, quelli dove c'è selezione, dove può cambiare la classifica, no? Cioè, stiamo parlando delle tre cime di Lavaredo. Tre cime di Lavaredo. Ecco, quindi quelle lì, cioè, stiamo parlando di lassù, stiamo parlando dei tapponi dolomitici. Stiamo parlando del Cadore, più o meno. Sì, sì. Quindi sì, una sì, delle poche zone delle Dolomiti che non è in sì, Trentino, tanto esatto, per capirci. Esatto, esatto. Una delle zone, appunto, queste, quelle poche che utili, tra l'altro. Esatto. Parliamo con l'assessore al bilancio di Auronzo di Cadore, giusto? Dario Veceglio, pronto? Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Ebbene, grazie. Voi sì, come ma sì, noi abbastanza bene, ma siete voi che dovete attrezzarvi e preparare. Quando è che arriva la tappa? Il 25 maggio, il 25, due sì, settimane. Più. Vi state preparando da quanto tempo, insomma? Da qualche mese. Che siamo... Qualche mese, cioè... allora, è dicendo te poco fa che quattro transenne... Sì. D'arrivo, la piccola ria. Vabbè, sono cinque, via, dai, adesso non siamo qui a contare le transenne, che sì, non è quello no, che conta. Cioè, voi in Veneto la mettete sempre giù dura. Scusa, io da buon assessore al bilancio conto anche quante transenne metto lungo il tracciato. Tra le altro, tra l'altro, da giustamente. 5 mi fa la differenza. E come lei, da buon assessore al bilancio, quando uno è arrivato da lei ha detto perché non prendiamo la tappa del Giro d'Italia? È svenuto subito. Detto, esatto. Che la sua risposta è stata perché? Cioè, voglio dire, immagino, no? Cioè, perché prende la tappa del Giro d'Italia? In realtà tutti sanno che la tappa del Giro d'Italia ha un'immagine, comunque, ha un ritorno di immagine enorme, no? Sul piano proprio visivo, nel senso che le riprese televisive vanno poi non soltanto, vanno nel mondo, insomma tutte queste cose. Però dal punto di vista organizzativo, che cosa succede? Intanto quanto tempo fa voi avete avuto il contatto con l'organizzazione del Giro d'Italia? Allora, da settembre dello scorso anno abbiamo iniziato a muoverci in questo senso, diciamo, siamo stati contattati da RCS Sport, che organizza il Giro d'Italia per conto della Gazzetta, di lì in poi abbiamo iniziato a muoverci, ad organizzarci noi sul territorio, attraverso la costituzione di un comitato tappa, attraverso mettere d'accordo le forze dell'ordine, organizzare l'asfaltatura delle strade, ecco, sono serie di iniziative che poi... La prima cosa che ha detto mi pare comitato tappa. Comitato tappa, questa è la prima cosa. La prima cosa, c'è un comitato tappa con un responsabile, tra l'altro, del comitato tappa, immagino. Per ogni settore, diciamo, da quello che può essere la comunicazione, il marketing, piuttosto che la logistica, piuttosto che la sicurezza, la polizia, la quale noi teniamo particolarmente, che poi ci teniamo che il nostro territorio ne esca ben pulito al termine delle operazioni e quindi alla fine ci va, c'è un certo lavoro da fare, ecco, un ingente morbido. Ecco, quante persone coinvolge la gestione di un giro della tappa, cioè la gestione della tappa del giro, anzi, scusa. Dunque, la gestione della tappa del giro coinvolge qui localmente 300-400 persone sicure. 3-400? Sì, sì, esatto, perché poi questa è una tappa particolare, sapete tutti dove sono le tre cime di Lavaredo, giustamente. Per arrivarci c'è un'unica strada, quindi ci vuole molta gente che ci lavori anche lo stesso giorno della tappa, quindi tra forze di polizia, vigili. Quindi c'è tutto anche il controllo, no? C'è tutto il controllo, protezione civile, organizzare l'accesso, il rientro della gente, dei tifosi, lo stesso la sicurezza degli uomini, dei ciclisti, piuttosto che delle auto in seguito. Qui si muove un esercito di persone, se vogliamo dire. Ma quanto costa questo esercito di persone? Facciamo subito i conti, più o meno. Cioè, quando dite sì, si fa un'operazione di questo genere, il costo di un comune che volesse proprio investire... 90% è basato sul volontariato, basato sul... Ah, quindi voi vi muovete su questo, insomma. Lavoriamo tanto sul volontariato. In termini di costi, come ti dicevo prima, la parte logistica, ecco, il comune ci mette la parte logistica, quindi l'utilizzo di uomini, dei mezzi per nel nostro caso pochi giorni fa abbiamo ripulito le strade dalla tanta neve che c'era in loco, quindi quelli sono i costi vivi, dopodiché abbiamo pensato che forse servono più le tre cime al Giro d'Italia che il Giro d'Italia alle tre cime. Ma gli alberghi ci sono? Bastano? Sì, gli alberghi ci sono, ci auguriamo che non bastino, ecco. Abbiamo già interessato anche le zone limitrofe, hanno messo a disposizione anche... Ma indicativamente quante persone dovete ospitare? Questo indicativamente non te lo so dire. Ma volevo parlare con lei, l'assessore al bilancio, lo so, però c'è a fianco, sicuramente c'è il responsabile del comitato che non le ha detto tutto. Non le ha detto tutto, allora no. Parliamo anche col responsabile del comitato, allora, a questo punto. La parte, diciamo, io mi occupo della parte amministrativa, quella che è la parte poi anche operativa e funzionale se ne occupano gli altri. Questo te lo passo subito. Aldo Corte, giusto? Aldo Corte, va bene. Grazie assessore, complimenti. Sì, complimenti. Non so perché cosa, comunque complimenti comunque. Sai che lui è contentissimo che non gli hai detto la frase patto di stabilità, perché sennò sveniva sul momento. Esatto. Questa frase rischierei di cadere. Esatto. Allora facciamo la seconda prova. IMU. Ancora lì. È ancora lì, che ha già avuto un momento di scoramento, già esatto. Si è già preso un po' così, eh. Va bene, allora Aldo Corte, pronto. Pronto, ciao. Dai e vai. Non è solo calcio. Da gennaio a... È solo un gioco, ma... Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? What's this? Ma quanto costa una tappa del Giro d'Italia? E stiamo parlando con un tappone dolomitico, quello delle Tre Cime di Lavaredo, e stiamo parlando ovviamente con assessori e comitati organizzatori di Auronzo di Cadore. E abbiamo al telefono Aldo Corte, pronto? Ciao. Ecco, ciao. Allora, diamoci del lei, facciamo finta di avere un distacco di fronte a tutti gli eventi, non si sa mai queste cose qua. No, però volevamo capire a questo punto, gli alberghi, quante persone avete intenzione di... vi hanno chiesto, non so, 500, 600, 1000 posti letto? Guarda, Auronzo ha circa un 1000-1200 posti letto in albergo e sono quasi tutti esauriti per i giorni della tappa. Ma perché li copre la tappa, oppure perché ci sono anche altri che vengono ovviamente a vedere la tappa? Cioè sono turismo? È proprio turismo, sono proprio i tifosi che vengono a vedere la tappa. Noi purtroppo ciclisti non possiamo ospitarli perché il giorno prima partono a Silandro, il giorno dopo ripartono da Riese Pio X, quindi in realtà la tappa in realtà non si ferma materialmente, però in realtà porta turismo in questo caso. Esatto, sia il giorno prima sia poi la gente che vuole fermarsi anche per tutto il weekend, la tappa è di sabato, quindi molti ne approfittano per fare il venerdì, il sabato e la domenica. Ma se vi sarete attrezzati per offrire almeno un tramezzino ai giornalisti? Sì, un tramezzino ai giornalisti sì, però a parte la stampa puntiamo molto anche ad accogliere bene tutti i tifosi e gli appassionati di ciclismo. Sì, che è meglio, tra l'altro, più simpatici, per certi versi, in questo caso. Vabbè, insomma, quindi in questo... Ma ci sono delle cose particolari che voi avete dovuto attrezzare? Sì, guarda, abbiamo iniziato da dicembre a presentare la tappa alla popolazione locale, abbiamo fatto vari eventi che sono andati a colpire un po' tutti i target, diciamo, dalla famiglia, con il museo della bicicletta, con uno spettacolo di bici acrobatiche di Limatore. Faremo la giornata ecologica il giorno dopo la tappa con tutti i bambini delle scuole. Quindi diciamo che l'azione promozionale va più verso proprio la sensibilizzazione della popolazione. Ma voi quanta gente vi aspettate? Ma noi qualche migliaia di persone. C'è qualcosa che invece non vi aspettavate dal comitato organizzatore del Giro? Cioè un qualcosa che vi hanno chiesto e che, su cui non eravate pronti? No, finora abbiamo fatto fronte un po' a tutte le esigenze. D'altronde RCS e la Gazzetta sono molto collaudati. Sì, È da un po' che seguono un po' l'evento, sì, effettivamente. Esatto, cioè, qualcosa da un centinaio d'anni più o meno. Grazie, già dobbiamo avere anche lì di vicino a voi, che darà sicuramente fastidio, perché vorrà sicuramente parlare, l'assessore allo sport. Adesso ve lo passo. La domanda all'assessore allo sport ce l'avevo già preparata fin dall'inizio, è ovviamente. Ovvia. La domanda è ovvia. Scontato. La domanda è ovvia, cioè, Chi vince la tappa di Avon? No, ma cosa c'è? L'assessore allo sport, se non lo sa lui. No, cosa c'è? Pronto, Lorenzo De Martin, pronto. Giusto? Sì, buonasera. Buonasera. La domanda sorge spontanea. Avete fatto un incontro sul doping? No. Ecco, lo sapevo. Una battuta, lo facciamo doping la tappa. Vabbè, qua chiudiamo il nostro collegamento. Questa però devo dire è la cosa più interessante di tutta questa vicenda. No, cioè voglio dire, bisognerà prima o poi farla, perché sennò si va tutto finta di niente. Invece bisogna dare speranza, ovviamente, ai giovani e soprattutto castigare quelli che fanno i furbi in qualche modo. Però questa è la domanda che volevamo in qualche modo raccontare. Ma lì i volontari chi sono? Guarda, i volontari, ci sono varie associazioni sportive, c'è il CAI che ci ha messo a disposizione il rifugio Auronzo, che diventerà quartier tappa, quindi ci sarà un trasloco di tutto, e quindi loro si sono messi a disposizione. Varie persone che ci hanno chiesto di aiutare, insomma, molta gente del paese si è messa a disposizione, perché ovviamente è richiesto un grosso numero di persone. Poi ci sarà la protezione civile, non solo di Auronzo ma anche dei paesi limitrofi, e anche in quella giornata noi dovremo fare un servizio navetta, quindi ci saranno persone adibite ai parcheggi, alle casse e quant'altro, e quindi... Ma Auronzo reagisce? Diciamo di sì, dai. Sì. Diciamo. Una prova anche per noi, insomma, organizzare una cosa del genere, perché ci è già stato fatto in passato e sempre una bella sfida, insomma, ci siamo presi. Diciamo vuol dire che c'è qualcuno anche che non era molto contento di questa tappa. No, voglio capire, io voglio andare a inzigare. No, cioè, tutto questo unanimismo nel paese non mi piace, ci vuole l'opposizione qua. Sì, sicuramente, sai, ci sono le voci a favore e le voci contro, insomma. Misurina è un posto dove sì, che resterà magari poco accessibile per un po' di giorni. Arriva moltissima gente, anche oggi che siamo andati fino al rifugio c'era molta gente che camminava tra Misurina e le tre cime, e lassù c'è 1,5 metri di neve. Perfetto. Adesso va bene, grazie, è stato un piacere ovviamente parlare con voi. A voi. A presto. Grazie. Ovviamente prima o poi ci inviterete, no, a vedere la cima lì, no? Cioè, una delle tre, le tappe. Non le vogliamo vedere tutte e tre le cime, ce ne basta una, le altre due potete coprirle. Grazie, a presto. Dimmi che Antonio è ancora lì. Antonio? Sì, sì. Ma sei ancora lì, Antonio? Sì, sì. Vabbè, allora parla, dai, perché sei lì, eh. No, magari Tu ce l'hai con Allegri, giusto? Che ti ha fatto? Dunque, vabbè, io stavo aspettando che voi terminate il collegamento con la tappa, con gli addetti ero in attesa. Sì, e adesso sei in onda. Sei in questo onda, momento, Antonio, sei in onda. Allora dici, ma tu ce l'hai con Allegri perché? Cosa ha fatto? Ecco, bravo, così mi piace. Questa è una bella domanda, perché io non vedo l'ora che se ne va Allegri. Sì? Perché? Perché io sono mi schiero nettamente dalla parte di Berlusconi. Ecco, sì. E fino a qua vabbè, ognuno può fare quel che vuole. Però no, perché? Certo. Ecco, perché a me Allegri, onestamente, sportivamente, non mi ha mai convinto, neanche quando ha vinto lo scudetto, e neanche con la gara di andata contro il Barcellona. Però è andata meglio del Bayern, ad esempio. Cosa ho detto? Non ho capito. Che è andata meglio del Bayern. Cosa vuol dire? No, nel senso, cioè, del Barcellona è andato, col Bayern è andato meglio del Barcellona, tutto sommato ha avuto un risultato migliore, non è andato così male come il Barcellona. Bel dibattito. Bella domanda, eh? No, sì, lo so. Antonio? No, oddio. la gara di andata fu una bella gara, perfetta. E poi abbiamo visto tutti come è andata nella gara di ritorno. Vabbè, comunque tu non vuoi vederlo neanche dipinto, Allegri, ma chi vorresti come allenatore? È lì che ti voglio. O Donadoni. Oppure Rijkaard. Va bene, grazie, è stato bello, grazie, buona domenica. Adesso chiamiamo Berlusconi, glielo diciamo subito. Lui sta con lui. Lui sta con Berlusconi. C'è il cellulare Berlusconi che lo chiamiamo. Lascia stare. Ma no, è perché. Non dà fastidio. No, Antonio. Zitto, non dà fastidio. Insomma, Donadoni. Donadoni e Rijkaard. Sì, Donadoni non è che intenzione. È già l'ha piazzato. Rijkaard, come te lo dico? Va bene. Mister, Donadoni o Rijkaard? Allegri. Donadoni? Vabbè, cioè un po' così, perché lo conosce? Sì. Troppo facile. Che è successo? No, volevo vedere un mister che vede un proprio giocatore uscire in barella che si tiene il ginocchio. Che cosa pensa? Questo è di Natale, è che è uscito al 44esimo oggi. Posso suggerire la risposta? Ma che domanda gli è venuta in mente a questo qua? Ma scusa, ma che modi sono? Ti sembra una domanda da fare? Non cioè... è piacevole, praticamente. Dai e vai. Non è solo calcio. Watch this. Beh, non siamo abituati, scusa. Esatto, infatti. Cioè, nessuno ci avvisa, insomma, è un momento così. Cioè... È una cosa che ci ha colto del tutto impreparati. In realtà lo sapevamo, solo che. Solo che sei così. È tutta colpa dello spezzatino. È sempre colpa dello spezzatino. Sì, colpa dello spezzatino. Campionato spezzatino. Ti rimane sullo stomaco. No, è il campionato spezzatino, è una cosa a cui non siamo pronti. Oggi alle 18, stranamente, si gioca una partita che è Parma-Bologna e ha segnato il Bologna. Quindi Parma 0, Bologna 1. Adesso, poi, fra più o meno un paio di ore, vi diremo anche chi è che ha segnato del Bologna. Ha già segnato tra l'altro, sì, il Bologna, sì. Certo, vabbè, questo non è colpa nostra in questo caso, perché ha segnato subito il Bologna. Sì, sì. Siamo appena al nono minuto in questo momento. Parma 0, Bologna 1. Partita che ha dato tutto. No, dico ha dato tutto, non la partita, nel senso che vuol dire due squadre che, ecco, con che spirito entrano in campo queste due squadre. Per farsi una bella partita, insomma. Sì, cioè, Taider intanto, il mister, gol del mister Beretta qui con noi, che con che spirito? Due squadre, cioè, metà classifica. A questo punto è la soluzione ideale, ideale. Uno scappoliamo gli altri. No, fa la sua partita tranquilla, sì. Senza vedere troppo dal punto di vista tattico. Sì. Qua tutti avanti, tutti indietro, ma quelle cose un po' così. Sì, in modo molto rilassato. Però comunque si vuol vincere lo stesso. Beh, cioè, quello di sicuro. No, tra l'altro Parma e Bologna è anche un derby abbastanza sentito. Sì. Non c'è stato anche uno spareggio l'anno prima che andassi io. Esatto, ricordiamo Beretta allenatore anche del Parma. Per evitare la retrocessione, poi andò in Serie B il Bologna. Ecco. No, però prima ha visto il saluto di Ferguson, anzi è un momento bellissimo, veramente meraviglioso vedere. Dopo 27 anni di Manchester United e con tutto quello che ha vinto, che fosse proprio il minimo un'accoglienza di questo tipo da parte dell'Old Trafford. Però parliamone, perché in qualche un caso stiamo parlando di un mister che sta parlando di un altro mister in questo caso, no? Cioè, e non di un allenatore qualsiasi, di una persona che in qualche modo, nel bene e nel male, perché poi magari non si è sempre d'accordo con questa persona, però ha condizionato il mondo del calcio per gli ultimi quasi 30 anni, insomma, in questo passaggio. E l'approccio, insomma, il fatto che se ne vada via non dà un po' il senso di chiusura di un'epoca, di chiusura di un mondo di giocare? Quello di sicuro, perché poi insomma siamo abituati a vederlo, perché comunque il Manchester ha sempre fatto le coppe, quindi comunque vedere la Premier League lo si vedeva sempre in campo. Ormai sono quelle persone che ormai fanno parte di tutti i giorni, no? del fine settimana o delle coppe, e chiaramente adesso non lo vedi più e non lo si vedrà più, e indubbiamente sarà un una grossa perdita per il calcio in generale, chiaramente maggior ragione per il Manchester United. Perché? Che cos'è che aveva in più? Oppure che cos'è che aveva che altri non hanno? Insomma, che cos'è che in qualche modo, se c'è qualcosa da invidiare a Ferguson, intanto bisogna vedere da dove è partito. Io leggevo l'altro giorno, lui cominciò col Manchester United. Il Manchester United in quegli anni lì, quando poi arrivò Ferguson, bazzicava sempre nella medio-bassa classifica e quindi ha riportato il Manchester ad altissimo livello, ovviamente anche e inevitabilmente con i soldi, nel senso che, certo, che la propria Italia, certo, gli ha messo a disposizione l'aspetto economico, certo. Però lui ha scelto anche calciatori importanti, ha fatto crescere l'Academy, quindi il settore giovanile del Manchester United, insomma, quindi ha fatto un grossissimo lavoro, perché un manager, come si diceva prima, non è soltanto l'allenatore, anzi è quello che fa andare avanti un po' tutto il club, sia nella scelta di tutti i settori, non solo del settore tecnico ma anche del settore medico piuttosto che del resto. Ma Ferguson è unico in questo caso, perché magari ci sono anche ovviamente tanti allenatori molto bravi, importanti, che hanno vinto tanto, però forse è unico perché è sempre stato nello stesso club. Sì, è unico anche perché... Magari in Brasile, non lo so. No, è unico anche perché inevitabilmente ha vinto tanto, quindi risalta molto di più. Ricordo, se non sbaglio, non mi ricordo se nel Nantes o nel Saint-Étienne, un tecnico, e non ricordo purtroppo il nome, che credo che sia stato 40 anni, sempre tecnico in Francia. Il fatto che non ce lo ricordiamo, forse c'è una differenza. Certo, perché chiaramente ma probabilmente se lo ricorderanno in Francia, perché credo avesse fatto veramente grandi cose, comunque senza vincere ovviamente le coppe che ha vinto, i campionati che ha vinto il Manchester United, però facendo decisamente molto bene. Ecco, vabbè, comunque insomma in qualche modo c'è un aspetto, e poi soprattutto comprava giocatori e li azzeccava sempre in qualche modo. Sì, quasi sempre. È riuscito, a investire bene i soldi che gli venivano dati. Poi voglio dire, ti faccio un esempio, no? Cioè Mourinho viene all'Inter, vince il triplete, nessuno si ricorda che ha portato Quaresma. No. Hai capito? Cioè, quindi che cosa ti rimane? Il triplete. Però si sbaglia anche, insomma, inevitabilmente. Esatto, probabilmente gli ha sbagliati anche lui, ha fatto degli investimenti. Adesso per ricordare dei giocatori italiani, Makeda, Taibi non sono stati poi... Makeda però comunque veniva, l'ha preso dal settore giovanile, da ragazzo, quindi di però conseguenza... comunque, tanto per dire qualche cosa a livello di giocatori italiani, no, che no, non è... Non è che si ricordano ovviamente sempre quelli che hanno fatto bene. Sì, ma tra l'altro la cosa che... cosa c'è? No, era Guirou, esatto, l'allenatore dell'Auxerre per 44 Auxerre. Anni. Esatto. Sì, vabbè, insomma adesso tralasciamo. Ma accantoniamo poi questo poco per volta questo argomento, perché la cosa forse che oddio, io parlerei per tutto il tempo per capire la capacità di intervento di Ferguson sulla squadra, perché poi si diceva fuori onda che era il secondo allenatore, quello che gestiva poi tutto. Sì, tendenzialmente in Inghilterra il manager si occupa di tutto, come dicevo prima, e ha l'allenatore in seconda, quindi il collaboratore che poi dopo praticamente lavora sul campo e determina la stesura dell'allenamento. Poi il manager va a vedere, controlla, guarda, parla, organizza lo staff, però dopo materialmente il lavoro lo fa gli inglesi. Sempre in inglese. Inglesi, perché tendenzialmente stranieri... gli inglesi. Sì, per esempio io ho visto Zola, che dove quando era a West Ham faceva l'allenatore, perché comunque c'era un direttore sportivo, quindi era un'organizzazione leggermente diversa. Mister, adesso ci lasciamo. Certamente. Panchine? Adesso probabilmente con la fine dei campionati che si sono stabilite bene i club, quello che faranno l'anno prossimo, si comincerà a muovere qualcosa, e naturalmente mi auguro di trovare una panchina. Ecco, diventa delicato fare nomi, però quest'anno telefonate ne sono arrivate? Ne sono arrivate, sì, 3 o 4. Ah, ecco. Serie A, Serie B? Vabbè, basta, tutte no, no, no, fastidio, cioè, no, fastidio. Chi? Sì, sì, no, niente. Strada in diretta, grazie. Dai e vai. Non è solo calcio. Siete un supponente devastante, siete un devastante supponente Frankenstein tra Fazio, Gialappas, Caterpillar e Pedrocchi. Pedrocchi? Di questi ci sei? Pedrocchi sei tra noi? Federico. Bravo. Pedrocchi, quello di Mebius. Sì, ecco, allora, di questi quattro, caro nostro amico che termina con lo 066, che... di questi quattro c'è un unico elemento che non c'entra con noi. Ce n'è soltanto uno dei quattro che hai segnalato. Mi dispiace darti questa notizia. Però le azzeccate. Sei bravissimo. 349-238-6666. Hai la possibilità di mandare un altro sms. Sì, e dire qual è l'elemento che non c'entra con questi quattro, perché che quindi non c'entra con noi. Ciao, grazie. Quello dello 066. Sì. Se vuoi diciamo anche gli altri numeri, magari non... No, beh, ma comunque... No, non è il caso. No, ma stanotte... Che ha fatto Alonso? Stanotte fra le 3 e le 4, sappi, amico dello 066, che ti chiamo e ti spiego, se non ci mandi l'SMS, qual è dei quattro quello. Ecco. Tieni il cellulare acceso. Quello 8394 vorrebbe saperlo in diretta che ha fatto Alonso, non stanotte alle 3. Alonso ha vinto il Gran Premio di Barcellona davanti a Raikkonen e Massa, quarto è arrivato Vettel, quinto Webber e sesto Rosberg. Questo è il risultato del Gran Premio, quindi direi molto bene per la Ferrari, che è arrivata a due posti su tre sul podio, primo Alonso, terzo Massa. Senti, cambio musica. Dimmi. No, perché così stiamo in tema. Ah, capito? No, cioè, sì. mica no, cioè questo è un po', no? Eccolo. Il mio amico Charlie. Senti, dato che siamo in tema di Alonso, diciamo anche velocemente la classifica. Ma c'entra con il Brasile Alonso, scusa. Massa. Ho messo una musica apposta per cambiare il tema, ha capito tutto. Massa Brasile. Ah, Massa, cioè già è vero, cioè, è andata bene questa volta. Esatto, Massa Brasile. Sei andato sullo specchio e stavi scivolando. No, volevo dare la classifica del mondiale così per terminare con la Formula 1. Cioè, abbiamo gente al telefono. Vettel 89 punti, Raikkonen 85, Alonso 72. Gli altri sono già fuori dal gioco. Ecco, no, abbiamo gente al telefono, non gente così, cioè, capito? Gente importante, insomma, in questo caso. Parliamo di Brasile? Stiamo parlando di responsabile marketing, agenzia Blu Freccia, e stiamo parlando di Confederation Cup, e stiamo parlando con Michele Costantini. Pronto, Michele? Sì, sono qua, ciao. Ciao a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Sì, sì. Sono qua in Toscana, oggi... gita domenicale a Monterizzoni, quindi insomma alla grande. No, vuoi raccontarci altri pezzi della tua vita? Per noi va bene, cioè, però magari anche no. Ecco. No, cosa hai mangiato ad esempio a pranzo? Non dagli delle spinte, cioè, capito? Parto. Comunque Michele, in famiglia tutto bene? Sì. Ok, parliamo, volevo fare un'intervista, scusa se ti abbiamo disturbato. Però andate. È già personaggio, hai capito, Michele? Michele è già dei nostri, insomma. Cioè, senti, secondo me fai più troppo Gialappas tu. Stai attento che mi... allora, Blu Freccia, no? Pacchetti, sì. Viaggio, Confederation Cup. Di questo stiamo parlando. Cioè, di gente che in qualche modo si sta attrezzando per partire e andare in Brasile a vedere la Confederation Cup. Anche perché, ricordiamolo, manca un mese. Cioè, sembra una cosa che succederà fra sei mesi. Sì, no, non ci saremo. Non ci saremo, però tranquillo. La prima partita della Confederation Cup sarà il 15 di giugno, quindi fra un mese praticamente. Ecco, esatto. Quindi c'è già qualcuno che in qualche modo ha pensato bene e dice: io devo fare le vacanze, mi becco, vado in Brasile e mi becco anche una partitella qua e là, no? Succede? Sì. Sta succedendo? Sta succedendo, in realtà non c'è proprio esattamente la fila, bisogna dire la verità. Diciamo che non frega niente a nessuno della Confederation Cup. Possiamo chiudere qua il nostro dibattito o no? O è articolato questo dibattito? Ma la Confederation Cup, diciamo che interessa di più, un po' più ai brasiliani che diciamo ai viaggiatori, ai clienti internazionali, insomma, ai turisti internazionali. Ecco. Cioè, la Confederation Cup non ha ancora un impatto dal punto di vista di marketing tale da convogliare un turismo calcistico, è questo che stai cercando di dire. Considera che il dato è un po' questo: i biglietti venduti a brasiliani praticamente per la Confederation Cup sono il 97% sostanzialmente, per cui quindi equilibrato, mi sembra, con il resto del mondo. Il tipo, diciamo, sarà un attimino un po' sbilanciato, diciamo. Sì, sì, sì. Ma dall'Italia non c'è. Intanto facciamo un appello. 824-0024. Se qualcuno ha intenzione, esatto, o ha già prenotato, no, dico, anche se vagamente intenzione di andare, ci telefoni, perché così, certo, ne parliamo. Cioè, no, voglio dire, diventa... dai, con un 3.000 euro, con un 3.000 euro più o meno si va e si torna. Ecco, cosa mi offri? Cosa mi offri con 3.000 euro? 3.000 euro? Cioè, non è mica una botta. Cioè, una... Ho capito, 3.000 euro, però ti vedi tutte le partite sostanzialmente dell'Italia. Tre poi a casa, il volo internazionale, per notte in 4 stelle, tutti i trasferimenti interni, insomma, dai. Allora, aspetta, no, tu le stai buttando via perché tu normalmente tenti di piazzare questa cosa. Allora, ma è più lento. Allora, abbiamo detto 3.000 euro e fino a qua ci siamo. Volo poi, internazionale, allora, anda e rianda volo, Esattamente. Ok, poi? Poi hai tutti i trasferimenti interni, perché poi le partite chiaramente sono una Rio, una Recife, una Bahia, no? A Salvador de Bahia. Voli interni, interni, e questo ci sta dentro, va bene? E quindi, giro delle sono, città? Nove notti in hotel 4 stelle. Nove notti. E tutti i biglietti di prima categoria per le partite dell'Italia. Prima categoria vuol dire i posti migliori? Sì, non esattamente il top top, però sì, dai. Sono quattro categorie. Cosa c'è prima della prima categoria? C'è la categoria VIP sostanzialmente. Ecco, esatto. Sempre così, uno prima categoria pensa sono i migliori, poi c'è la superior, la VIP e la extra lusso, e alla fine finisci in curva nell'ultimo anello. È sempre così. Sì, vabbè, e poi sai, in Brasile adesso, essendo un po' un paese, insomma, dai, a livello internazionale economicamente importante, sempre più importante. E c'è una clientela VIP, diciamo business, importante, insomma, che andrà anche ai mondiali del 2014. Materialmente sono come dire, le grandi aziende che stanno prendendo biglietti. Questo è il concetto. Sì, no? Adesso per la Confederation Cup, torno a dire, non esageratamente, eccetera, però sicuramente per i mondiali un po' è così, insomma. Ma scusa, ma stai già vendendo anche i mondiali? Diciamo che già abbiamo delle richieste da parte di clienti aziendali, chiaramente, che organizzano viaggi incentive, cose del genere, già ci stanno chiedendo dei programmi, dei preventivi. Ma va? E scusa, con le Olimpiadi come siamo messi? E lì è interessante, diciamo, le VIP hospitality, appunto, perché poi le aziende tendenzialmente prendono sempre la soluzione VIP, quindi con, sai, il catering prima della partita, l'intrattenimento, eccetera, eccetera. Le VIP hospitality. E quindi vanno praticamente a circa $700 il base, diciamo. Scusa, solamente il biglietto, eh? Ah, ecco, no, $700 solo il biglietto, mi stai parlando, quindi c'è tutto il volo, l'albergo. Scusa, che VIP hospitality sarebbe questa cosa? Dopo quello è tutto da aggiungere, cioè, diciamo. Come minimo, cioè le VIP hospitality almeno 700, insomma. Senti, le VIP hospitality parla da $700, 750, poi salgono su fino anche a $2000, insomma, chiaramente quelle più... dove hai proprio il pranzo, quattro portate, eccetera, eccetera. Michele, Toscana dove? Sì. E Monterizzoli, precisamente. Attenzione, grande, hai visto, sei proprio lì vicino. Però, bello Monterizioni. Tra l'altro, con questo sole, tra l'altro c'è sole, no? Giusto? Sì, un po' nuvolosa, però sai, crea tutti questi colori molto belli. Bello. La campagna è meravigliosa. Ma sai perché c'è il nuvoloso? Perché tu non hai preso la VIP Hospitality. Con la VIP Hospitality, Michele, anche lì avresti avuto il sole. Ti dobbiamo insegnare tutto, Michele. Dai, su. Grazie, Michele Costantini. Una buona giornata. Buon ritorno. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Dai e vai. Non è solo calcio. Grandissimi Ramones su questa canzone. Tutto il resto non mi piaceva proprio niente, però questa canzone qua è proprio fatta apposta, perché c'è un Wonderful World che però ha un senso, però è anche, come dire, non soltanto mieloso. C'è un momento in cui bisogna fare i conti seriamente, quindi bisogna anche essere in qualche modo aggressivi per poter, come dire, modificare anche il mondo. In questo caso ci limitiamo soltanto al mondo del calcio. Sì, no? Il mondo del calcio sostanzialmente, sì. Ecco, e se c'è qualcuno che ha modificato un po' il loro mondo del calcio, la SOS Impresa e soprattutto la nuova Quarto Calcio. L'avete di cui abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato, noi ne parliamo di nuovo con Luigi Cuomo, con il quale noi abbiamo detto prima o poi torneremo a parlare ancora con voi ed è il momento opportuno. Giusto, Luigi Cuomo, pronto? Sì, questo, buonasera, questo è il momento giusto perché siamo reduci da una entusiasmante vittoria che ci ha fatto conquistare la promozione e l'anno prossimo militeremo in eccellenza. Ecco, questo tanto per capirci, però non è che la nuova Quarto è una squadra qualsiasi, vogliamo raccontare un po' la storia di questa squadra, che come nasce? Sì, nasce da un sequestro giudiziario a carico di un clan comunista che gestiva questa squadra. La procura distrettuale antimafia decide di affidare la gestione di questa società ad un'associazione antiracket perché possa rilanciare e restituire calcio, la squadra, lo stadio a cui era legato, lo stadio comunale che era legato alla società, alla città e al tifo vino, insomma, Fosano, sì. E che poi aiutasse la città stessa a fare un'operazione di liberazione dai condizionamenti mafiosi che condizionavano, la città da anni. Ecco, adesso avete adesso tifosi veri in questo caso? Cioè, la tifoseria si è allargata ecco. Anche a persone che magari prima non si avvicinavano perché il club era appesantito da figure, personaggi non gradevoli. Invece adesso le scuole, la società civile, l'associazionismo laico, il religioso, le parrocchie sono tutte intorno a questo che è diventato un simbolo di legalità, un presidio di legalità in città. Ecco. Un presidio che però ha avuto anche dei problemi, cioè dopo che la società vi è stata assegnata ci sono stati anche dei problemi a livello di strutture, certo, giusto? Certo, ecco, certo. Cerchiamo di ricordare i problemi che avete avuto. Abbiamo subito una serie di danneggiamenti da parte di ignoti nel corso di questi 8 mesi, con una cadenza quasi ritmica, perché ogni 40-45 giorni avveniva un evento. Una volta sono entrati, hanno portato via le scarpette dei giocatori di notte, un'altra volta hanno devastato le panchine, un'altra volta ancora hanno distrutto le reti. Poi alla fine, a gennaio, questo è stato l'atto più simbolico, sono entrati nello stadio di notte, hanno radicato dal muro una pesantissima grata di ferro per entrare nella segreteria e portare via solo i gagliardetti e le targhe di un torneo di legalità giocati un mese prima, con i magistrati, Libera, i giornalisti, lasciando lì invece i pochi oggetti di valore che pure c'erano. Beh, un messaggio neanche tanto indiretto. No, questo era estremamente diretto e chiaro, si è fatto rileggere un po' tutta la vicenda anche precedente. Vabbè, comunque voi avete retto e avete non soltanto retto, avete vinto. Appunto, questi invece di indebolirci hanno aumentato il consenso popolare e la solidarietà e ci hanno spinto ad avere anche più determinazione. Sì, ma adesso come vi attrezzerete per il salto di qualità? Adesso dovrete cambiare giocatori? Noi abbiamo una squadra vincente, una squadra attrezzata soprattutto di giocatori che erano e sono consapevoli del doppio campionato che avrebbero dovuto vincere, cioè quello in campo per la promozione e quello fuori dal campo con la città per essere anche un esempio di correttezza e di legalità, tant'è vero che i nostri giocatori sono spesso partecipano spesso alle iniziative extrasportive che realizziamo a Quarto. Ecco, i giocatori hanno un compenso nella vostra squadra? Hanno un rimborso spese. Ecco, senta, però la domanda però che mi sorge un po' spontanea in tutto questo è che nella campagna acquisti, se mai farete mercato, dovrete appunto convincere altri giocatori che magari non sono di Quarto, no? Diciamo in questo caso, a venire in quella squadra. Voi avete già provato a convincere altri giocatori a partecipare, a venire a giocare nella nuova Quarto Calcio? in realtà da qualche settimana abbiamo una lista di richieste di giocatori che vogliono giocare col quarto, che non potremo soddisfare completamente, perché buona parte della squadra c'è, quella che diciamo ci ha portato alla vittoria, e magari qualche implementazione, però la squadra c'è. Invece abbiamo decine di richieste da più parti di giocatori, anche di categorie superiori, che ci hanno risposto alla richiesta di verificare la possibilità di giocare con noi. Beh, questo mi sembra già un bel salto, segnale, in questo passaggio proprio quello, no? Poi forse anche i problemi. Certo, molti vogliono giocare con voi, però dovete cercare di prendere quelli bravi, perché poi bisogna continuare a vincere. Devono essere bravi dal punto di vista, diciamo, agonistico, devono essere bravi anche dal punto di vista etico, perché quando abbiamo preso quelli che abbiamo adesso, abbiamo fatto attenzione che non avessero né precedenti penali né precedenti in corso, ma che non avessero subito neanche particolari sanzioni dalla giustizia sportiva. Certo. Perché vogliamo che anche il loro comportamento in campo sia un comportamento esemplare. Noi la ringraziamo molto, ovviamente nel limite del possibile continueremo ancora a seguire Nuova Quarto. Grazie per esserci grazie ancora stati buonasera. Qui con noi. Grazie, buona serata. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger. Vabbè, adesso devo tagliare Patti Smith questa notizia. No, non è una notizia. C'ha scritto dal Brasile. Ah, c'ha scritto dal Brasile. Diego Preite ci scrive su Facebook, dice: vivo a Recife, che è una delle tre città. Una delle tre città di cui parlavamo prima, in cui giocherà l'Italia. E ho comprato due biglietti di seconda categoria, pagati 143 reais, la moneta brasiliana, sono più o meno 55 euro. Li rivendo. Attento perché Diego è un furbetto. Attenzione. Diego è uno di quelli furbi. Allora, ha preso due biglietti di seconda categoria, ha pagato 55 euro. I due biglietti lui li rivende a 300 reais, cioè a 114 euro. Okay? Con questi ne compro due di quarta categoria a 50 reais, che sono 19 euro. Quindi ci fa su dei soldi. Si guarda la partita da un posto un po' peggiore. E cos'è che sfrutta? Lui dice: Diego, i brasiliani sono abituati a fare tutto all'ultimo minuto, quindi li venderò facilmente. Facile. Hai capito? Proprio... Diego ci fa gli affari. Certo, non è che Diego ce le dice, però no, ci sta spiegando. Esatto. No, è un test anche per lui la Confederation Cup, perché poi sta roba qua la farà i mondiali con biglietti di altro livello, altra sono categoria. Sono le prove generali, insomma. Bravo Diego. Diego sei tutti noi. Ieri sera San Martino Sicomario è andata in scena la serata finale del torneo Albani, una competizione internazionale di calcio maschile riservata agli under 12. Ah, ecco. Si comincia con Cremonese Monza, gara decisa solo ai calci di rigore, coi Brianzoli vittoriosi 3-2. La seconda sfida premia il Novara, che supera di misura i grigio-rossi, usciti ancora una volta sconfitti. Cremonese. Il torneo Albani se lo giocano Monza e Novara. Primo tempo tirato e biancorossi subito pericolosi. Ma sono gli azzurri a passare in vantaggio, grazie all'attaccante Renolfi che supera di rapina il portiere Formentoni. 1-0 Novara. Poco dopo, sempre Renolfi si procura un calcio di rigore, dal dischetto Roselli, traversa e rete. 2-0 Novara. Squadre negli spogliatoi. Ripresa poco spettacolare e molto nervosa. Il triplice fischio dell'arbitro incorona il Novara, che si aggiudica la 21ª edizione del torneo, bissando il successo ottenuto lo scorso anno. Da San Martino Sicomario in provincia di Pavia è tutto. Per Dai Vai, Radio 24, Simone Lo Giudice. A San Martino Sicomario sono così, sono precisi, puntuali, tutto, si capisce tutto quello che deve dire. C'era un pochettino di 3-0. No. C'era questo un po' così, un po' di tristezza sul fatto che abbia vinto il Novara 4-0. No, così scherzavo, così. Vabbè, non ho capito che squadra, cosa stai guardando, scusa. Bologna, Parma, Bologna. Siamo al 42esimo. Il Bologna è sempre in vantaggio col gol di Taider. Campo in ottime condizioni. C'è un po' di cornice di pubblico. Quella no, però colpo di testa di Amauri che è stato parato dal portiere del Bologna, che è Stevanovic, non è Curci, niente. Ah, addirittura Mirante, portiere del Parma, applaude la parata di Stojanovic. Posso dirti una cosa? Mi viene voglia di ascoltare di nuovo un minuto. Di fronte a una splendida cornice di pubblico si è disputata ieri sera la sesta giornata della Serie A1 di football americano. Gara combattuta tra Siemens Milano e Giants Bolzano, che vede i milanesi vincenti per 31-23, con i bolzanini che entrano in partita solo nel secondo tempo, dopo essere stati in svantaggio per 24-0. Passiamo ad Ancona, dove i padroni di casa Dolphins sconfiggono nettamente gli Hawks Reggio Emilia per 19-0, ottenendo momentaneamente la testa del girone B. Passiamo quindi alla Serie A2. Cardinals Palermo, Sharks Palermo 35-28, Muli Trieste Redskin Verona 48-8, Frogs Legnano Demons Cernusco sul Naviglio 21-28. E passiamo ora al football femminile. Oggi pomeriggio presso lo stadio comunale di Castellanza Varese si disputerà la seconda giornata del primo campionato italiano di football americano femminile. I match della giornata saranno i seguenti: Tempeste Sirene Booster Sizio contro le Lobster Pescara, Neptunes Bologna contro Furie Cernusco sul Naviglio riposano Black Marines. In chiusura ricordo che potete trovare maggiori informazioni sui vari campionati sul sito della Federazione Italiana di American Football, sia www.fidaf.org. Da Torino è tutto, per Dai Vai Radio 24, Alessandro Lucca. Hai il tempo solo di dire dove devono spedire il loro minuto di Radio Cronaca. Via mail a daievai@radio24.it. L'ho registrato col telefono, non ce lo mandate, noi lo mandiamo in onda. Finito. Svegliati, svegliami, dai, cosa fai? Dammi solo un minuto, un soffio di fiato. Svegliati, svegliati, dai, cosa fai? Sì, mamma mia. Perché tu il testo non l'hai mai sentito tanto. Strada in diretta, per fortuna. Abbiamo capito, ma dirselo è dura. Dai e vai, non è solo calcio. Ultima chicane per Fernando Alonso, per poi andare a prendere l'ultima curva e già esultare. Fernando Alonso va sul traguardo e va a prendersi il boato del pubblico, va a prendersi la 32esima vittoria della carriera, vincendo il Gran Premio di Spagna a distanza di 7 anni dal primo successo nel 2006. Il primo successo nel Gran Premio di Spagna con la Ferrari, ha già vinto in Spagna ma era il Gran Premio d'Europa la passata stagione, e qui arriva una grandissima vittoria, una grande reazione Waiting for the end of time, was waiting for the biggest wave of my life. But when I opened my eyes, it was a quiet morning. No bell was ringing. Scusa, ci sono un sacco di notizie che riguardano gli allenatori. Esatto, momento allenatori in questa domenica. Siamo alle 18.47, momento allenatori, nel senso che da un lato Guidolin, allenatore dell'Udinese, ha confermato che anche l'anno prossimo allenerà all'Udinese, quindi ha confermato la sua presenza. E fino a qua. Mentre... Cioè non c'era, per esempio, non so, il Real Madrid che lo voleva, no? No, Mourinho ha detto che all'Udinese no per quest'anno, ci sta pensando, sta riflettendo. Mentre invece qualche notizia è stata data dal presidente del Napoli De Laurentiis, che ha reso omaggio a Mazzarri e sostanzialmente ha detto lo ringrazio di quanto ha fatto col suo staff in questi 4 anni. Ora, quando si dicono queste frasi, vuol dire che Mazzarri se ne va. Cioè, tu lo vivi così questo. Cioè quando il presidente dice ringrazio Mazzarri per quello che ha fatto in questi 4 anni, lui e il suo staff, vuol dire che per Mazzarri la storia a Napoli è finita. Chi è che viene? Eh? Chi arriva? cioè chi è che va a Napoli a questo bella punto, domanda eh? Perché Mazzarri dove va? Va al Milan Mazzarri, perché Allegri va alla Roma. Ma allora, tu stai, allora vediamo un attimo dove stai facendo. Mazzarri. Scusa, Allegri va alla Roma. Ma Allegri sicuro va alla Roma? Allegri va alla Roma. Chi l'ha detto? Io. Mazzarri va Allegri alla Roma. Mazzarri al Milan. Mazzarri Milan. Certo. Mazzarri Milan. Milan, vabbè. Resta, poi... resta vuota la casella Napoli. Napoli. Che non ci può andare Andreazzoli perché è un uomo Roma. Andreazzoli a Napoli, certo, non, certo. Ci, non ci va. Quindi no? Chi è che ci va a Napoli? Non lo so. Non lo sai. Beretta, poi, potevamo certo. chiederglielo se voleva andare poi a Napoli. Poi c'è questa cosa incomprensibile che è veramente una roba pazzesca. È quello dell'anno sabbatico che dovrebbe prendersi Conte. Ma che modi sono? Cioè, abbiamo un contratto, vedi di lavorare. Cioè, che stiamo a fare? Cioè, mi dite della pallavolo, per favore. Certo, la finale del campionato di pallavolo. Scusa, non sono io che lo chiedo, cari. Scusa, è Mauro che ci ha mandato un sms al 349-238-6666 e Luca appunto ci dice che nella pallavolo la finale della pallavolo l'Itas Diatec Trentino contro la Copra Elior Piacenza, il 2-1 il risultato nei set, siamo 6-3 nel quarto set per Piacenza, il risultato dei set è 25-23 per Trentino, 25-21 per Piacenza, 25-22 per Trento, e adesso siamo 6-3, quindi 2-1 nei set e 6-3 nel quarto set, sì, per Piacenza. Quindi se per caso anche a un certo punto Conte decide di mollare il colpo, si liberano tanti, cioè, posti per un anno, dice, poi questa cosa vado via un anno poi torno, no? Cioè in questo passaggio chi ci va ad allenare la Juve? Vabbè, dimmi Carrera, Alessio Carrera, ma smettila, scusa, è andata benissimo la Juve quando c'era Alessio in panchina, eh? Sì, adesso non esageriamo, cioè una botta di vita, vabbè, però è un problema, cos'è? Che c'ha dei ritmi incandescenti Alessio, cioè, sai, non riesce a star dietro. Sai chi è che potrebbe andare a Napoli? Sì. Ranieri che, ricordiamolo, Ranieri è stato promosso con il Monaco dalla Liga 2 in Ligue 1, e quindi Ranieri a Napoli. Ranieri potrebbe andare perché a Napoli. Perché c'è in Italia ancora qualcuno che vuole Ranieri, secondo te? Ci potrebbe andare a Napoli Ranieri. Vabbè, insomma. Tanto ormai nel calciomercato ognuno dice la sua, possiamo dire anche noi. Anche voi, dite anche voi la vostra, ovviamente, al 349-238-6666. Ci confronteremo ovviamente questa sera su due fronti, cioè il primo, quale dei vostri giocatori, anzi, quali giocatori della vostra squadra preferita non volete più vedere in campo, cioè quelli che proprio non li sopportate, quelli che proprio non potete più reggerli perché è uno scandalo vederli giocare, no? E poi soprattutto cominciamo a fare il giro delle panchine, perché abbiamo detto per il momento, e questo è Luca Gattuso, sai chi potrebbe andare Mazzarri, scusa, sì. Mazzarri al Milan, sì. Allegri alla Roma, Ranieri al Napoli, insomma, oppure Ranieri. Al Napoli potrebbe andare anche Pioli. Pioli del attenzione, Bologna. Pioli torna in campo. Pioli, eh? Del Bologna. Sì. Pioli è un bel giro. Insomma, Pioli al Napoli e vabbè, lui Alessio alla Juve. Vabbè, adesso perché vogliamo scherzare, ovviamente. No? Ma la Juve. Ma Conte dove va a questo punto? No? Anno sabbatico. E poi ti dico, allora, Capello cosa ce ne facciamo? No, Capello un po' perché deve fare i mondiali. Deve Capello fare con la nazionale russa, sì, quindi resta lì. Resta lì a cincischiare. Montella non ha dato conferma alla Fiorentina. Montella al Milan? Montella al Milan? No, neanche Montella al Milan. Non lo vuoi Montella al Milan? No, io figurati, a me non me ne potrebbe fregare di meno. Potrebbe. Allora, che dire? Cioè, al Milan chi? Rijkaard? Scusa, no. Cioè, Rijkaard al Milan. Ma secondo te Allegri proprio se ne va via? Tu beh, dici? Sì, mi sembra di aver capito le dichiarazioni che ha fatto in questi giorni. Cioè, del tipo? Ma ha detto che in realtà il rapporto con Berlusconi è abbastanza conflittuale, ma non è l'unico che litiga con, che ha un rapporto conflittuale. Delio Rossi? No, Delio Rossi, tenete giù le mani da Delio Rossi. Tenete giù le mani da Delio Rossi. Cosa ok, fa? Il pugile resta da noi. È lui che deve tenere giù le mani. Se c'è qualcuno che deve tenere giù le mani, non però, noi, cioè, voglio dire, è lui che deve tenere giù le mani. Il pugile resta da noi, non lo toccate. Sì, e quindi lascia, anche un no. po'. Allora, se Guidolin resta l'Udinese, l'Atalanta con Antuono resta. Ci potrebbe essere Petkovic. Quello mi piace. No, Petkovic della Lazio, però anche lì mi sembra che sia abbastanza confermato. Sai cosa ti posso dire? Sei assolutamente impreparato di fronte a questo. No, evento. Beh, ti ho fatto i nomi, ti ho detto Ranieri, modo di parlare. No, scusate. Ranieri e Pioli che vanno a Napoli, Ranieri e Pioli a Napoli, cioè. Mazzarri che va al Milan e Allegri che va alla Roma. Dai, via. Mazzarri va al Milan? Mazzarri al Milan, vedrai, no, vedrai. Poi tutti lì, adesso tutti i milanisti che dicono no, no, no, no, saranno lì con la maglietta, le sciarpe, Mazzarri. Ma perché va alla Roma, scusa lei, non va all'estero? Cioè, no, va benissimo, alla Roma. Ah, attenzione, vabbè. Ha segnato, no, è il gol del Bologna, quello di prima intervallo. Quindi, ricordiamo, 1 per il Bologna, 0 per il Parma, ha segnato Taider al sesto minuto del primo tempo, siamo nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? My darling, New Orleans, my crawling hometown, your magnolia melancholy howling softly set me down in corner bar. C'è qualcuno che dice che non vuole vedere nella propria squadra Giovinco. Giovinco e Isla fuori definitivamente, ci dice Fabio, e questo ha anche il suo perché, insomma, il suo senso in tutto ciò, ma ce lo dicevano anche sulla nostra pagina Face. Giovinco fuori, non è stato gradito, insomma, la sua presenza in questa Juventus. Abbiamo già segnalato Schelotto, abbiamo già Goicocea, Piris. Per quanto riguarda la Roma, c'è qualcuno che non vuole vedere destro, sì. Matri, poi Kivu. Matri alla Juventus, esatto. Ricordiamo. Matri alla Juventus, sì. Sì, sì, no, non voglio, sì, sì. Kivu, non voglio più vederlo nell'Inter, con o senza caschetto, insomma, sì. In questo passaggio. C'è un Davide, ma non riesco a capire chi può essere questo Davide. Io ricordo quelli che non voglio più vedere nella, sì, Juventus, cioè Padoin, Peluso, De Ceglie, Matri, Quagliarella, Isla e Anelka. Mezza, capito? Squadra praticamente. Vabbè, certo, vorrei, certo, fare qualche cosa un po' più disfizioso. Tu chi non vorresti più vedere dentro la Sampdoria? Allora, Maresca. Berardi, no, Maresca non l'hai mai visto. No, infatti io Maresca lo vorrei vedere molto di più. Allora, sicuramente Stigarribia. Sì. Il naso schiacciato è Stigarribia. Sì. Poi Berardi, poi forse no, Mustafi lo teniamo. Sì, mentre tu pensi, io posso ringraziare intanto Valeria Bernardi e Roberto Scaltriti, sì, che sono stati al mixer. Puoi ringraziarli. Guido Scotti, che è stato assistente al programma, Luca Cancellara, che è stato in redazione. Esatto. Icardi via, perché non lo posso più vedere. Sì. Maxi Lopez, sì, via. 4, perché 5, no, perché si rompe sempre. Dai e vai, non è solo calcio.